attraversi le giornate come un cieco attraversa le strade. È solo un periodo ma non riesci a capire che cosa ti accade. Sei confuso, soltanto ubriaco, sei arrabbiato, soltanto annoiato, e ti svegli sempre col piede sbagliato, sapendo che nulla è cambiato. Forse questo è soltanto un periodo di lucidità. A volte i tuoi sogni diventano più forti della tua volontà, così ti bloccano per giorni e perdi di vista la realtà. Sarai lontano da tutti per un po', certe domande che avevi scordato ritorneranno ad assillarti come un disco graffiato. Forse questo è soltanto un periodo di lucidità. Certe domande che avevi in cantina ritorneranno più forti di prima, come gli sconti in vetrina. Forse questo è soltanto un periodo di lucidità.